Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Premetto che l'argomento di oggi non è la debacle del Front National in Francia, Marine Le Pen, che dimostra una sua sconfitta nelle prime pagine di tutti i giornali, non ci interessa tanto. Ci interessa però quello che può essere il riflesso di una notizia del genere nel nostro paese. Perché ci interessa? Ci interessa perché abbiamo la fondamentale convinzione che in realtà quello che stava accadendo in Francia per molti era come un sospiro di speranza che finalmente qualcosa assimilabile alla destra estrema potesse riprendere il suo piede in Europa. Lo dice una persona che non gli è mai importato nulla o poco della politica, che ha sempre avuto l'etichetta di persona di estrema destra per come si comportava, per come rifletteva, per le cose che diceva. Ha cominciato a essere chiamato comunista quando in questa radio ho iniziato a parlare di disabili, di diritti civili, di persone senza fissa dimora, di stranieri, di immigrati e via dicendo. Questo mi fa riflettere, chiusa la parentesi francese, che forse evidentemente non abbiamo ancora elaborato il preciso significato che può avere un termine usato alle nostre latitudini ufficialmente soltanto in chiave dispregiativa, che è il termine fascista. Fascista negli anni 70 fino a metà degli anni 80, quando inizia il cosiddetto edonismo reganiano, era la maniera più semplice, più banale per definire tutto ciò che non era in linea, perlomeno con il pensiero comune. Qualunque cosa non fosse allineata con il bel pensare era considerata fascista. Poi lentamente questo termine ha cominciato a disciogliersi in mille rivoli. I fascisti sono defascistizzati, ma al compenso i fascisti, quelli veri, hanno cominciato a essere più radicalmente allo scoperto rispetto a quelli che sono i simboli chiave di quello che possiamo considerare un atteggiamento fascista. Già, ma cosa vuol dire essere fascisti? Vuol dire rifarsi comunque ai momenti nostalgici del passato in cui il fascismo era definito storicamente come un ventennio che ha portato l'Italia alla guerra? Probabilmente fascismo è questo. Sono più degli scorsi anni, arrivano dalla Puglia, dal Lazio, dalla Lombardia, da tutta Italia, anziani, giovani, bambini. La città natale del Duce sembra rassegnata ad accogliere questo raduno. Il turismo mussoliniano porta soldi e quest'anno è scattata anche una tassa per i pullman di 30 euro al giorno. Dietro le bandiere i camerati in fila per quattro con 2 metri di distanza. Questa divisa cosa rappresenta? Quando c'è stata la marcia su Roma era la divisa dei squadristi. Dove l'ha comprata? Questo naturalmente è l'aspetto probabilmente meno preoccupante per chi lo considera un pericolo comunque per gli assetti sociali e politici. L'aspetto folcloristico è quello dei nostalgici che ormai vanno a Predappio in pellegrinaggio sulla tomba del Duce come fosse una delle tante ricorrenze, come fosse quasi una sagra di paese, come fosse un santo patrono. Si vestono con le camicie nere, con i fez, con le scritte me ne frego e vivono in una sorta di eterno e perenne simulacro di quelle che sono le iconografie più palesi del ventennio. Conosco bene, perché in famiglia avevo rappresentazioni del genere, ma perché? Perché vengo da una famiglia di persone che hanno frequentato e non hanno rinnegato il fatto di essere stati fascisti, quindi conosco bene questa iconografia. Poi esiste un'altra maniera di definire il fascismo oggi, e la etichetta di fascista se la sono presa un po' tutti, diciamo, i leader politici degli ultimi anni se lo prendono continuamente ancora via via dicendo, quando qualche rappresentante delle istituzioni della politica prende atteggiamenti estremi, viene in mente la signora che ha definito la vittima di un magrebino come una se l'era andata a cercare perché era affamata di maschio. Ecco, quello cos'è? Un atteggiamento fascista. E se uno dice che quello è un atteggiamento fascista, cos'è? Un comunista. Ecco, vogliamo oggi capire e definire in questa sorta di manicheo sistema di definizione degli italiani quanto gli italiani siano ancora fascisti, considerando il fascismo una categoria allargata, non semplicemente di adesione nostalgica alle iconografie del ventennio, quindi come atteggiamento di intolleranza, di violenza, di poco rispetto delle diversità delle minoranze, o perlomeno è possibile trovare un altro termine per definire tutto questo che non richiami necessariamente a qualcosa che ormai su quale la storia ha fatto un suo giudizio. Beh, oggi parleremo di questo: quanto gli italiani possono dirsi ancora fascisti. 8 0 0024 0024. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Oggi cerchiamo di fare una nostra radiografia e vediamo quanto noi siamo eredi di stili, modi di vita, di modi di pensare del ventennio. O è stato il ventennio che in realtà ha riportato alla luce, come se fosse una sorta di selettore di istinti atavici di una popolazione, alcuni elementi fondamentali, imprescindibili dagli italiani, che oggi rivediamo riemergere in altre forme nella politica, in rappresentanti comunque di pensiero e ideologie, e continuiamo a chiamarli necessariamente fascisti. A fare un'analisi interessante su questo fenomeno è un collega, un giornalista, l'autore di A Noi, cosa ci resta del fascismo nell'epoca di Berlusconi, Grillo e Renzi. Le tre figure che hanno bene o male segnato fortemente la politica degli ultimi anni, su tutti bene o male, in qualche maniera, in qualche occasione, è uscita fuori l'etichetta di fascista. L'autore di questo libro è Tommaso Cerno. Tommaso Cerno, buongiorno. Buongiorno. Diciamo, la sua analisi questa mattina potrebbe darci anche l'idea di dare un occhio oltre i nostri confini. Nella sua definizione comunque di fascismo perenne, fascismo comunque riemerge al di là degli anni del ventennio, quanto oggi gli italiani che ancora in cuore, pur non sapendolo, non manifestandolo in maniera così plateale come quelli che vanno a Predappio con il fez e la camicia nera, si sentono profondamente fascisti, come si sentono questa mattina secondo lei? Ma è soprattutto a questi italiani che si rivolge la mia analisi, nel senso che affermarsi fascisti, mostrare con nostalgia o con violenza simboli come la celtica, la camicia nera, il fez, i simboli del fascismo militare, significa anche chiudersi in una nicchia che nel tempo è stata tale, e quindi dire che cosa si è significa anche sviluppare degli anticorpi. Il problema è che il fascismo non fu né un movimento di nicchia né un movimento che si limitò ad esporre simboli, ma fu un movimento di massa che portò gli italiani fino al 43 ad aderire sostanzialmente a questa visione, al mussolinismo, perché poi il fascismo italiano fu essenzialmente Mussolini, e modificò con gli umori, con la vita, con le vittorie e con le sconfitte di Mussolini anche la sua empatia generale, fino a un finale del fascismo che ci mostra come l'onda lunga non poteva interrompersi, ma poteva soltanto riemergere a nostra insaputa sotto falso nome in tutte le epoche, perché noi con il fascismo i conti veri non li abbiamo mai fatti. Noi quindi non esattamente, fatto... esattamente come dice lei nell'incipit del suo libro, alla fine è un italiano qualunque che è riuscito per una serie di circostanze, vuoi delle contingenze storiche, molto al paese che voleva governare. Era il più italiano degli italiani a questo punto di vista. Il più italiano degli italiani, come è stato Berlusconi, come oggi somiglia essere Renzi, pur con tutte le opposizioni e l'aver trasferito parti di questo essere l'italiano degli italiani anche alle opposizioni, e anche la Democrazia Cristiana. Nel mio libro io la analizzo non come un movimento dove la democrazia in qualche modo si affermava in chiave antidittatoriale, se non per il labirinto istituzionale in cui viveva, ma come un partito che ha costruito un modello di governo che è durato due volte e mezzo il fascismo e dove alla fine decidevano sempre gli stessi. Ma adesso non so lei a quale generazione anagrafica appartenga, ma lei si ricorda il fanfascismo? Fanfani, che quanto di meno iconograficamente può assomigliare a un fascista, viene rappresentato con la camicia nera, cioè scritto sotto fanfascismo. Perché l'essenza del fascismo, quella culturale, quella antropologica che non abbiamo mai sconfitto perché è molto italiana, è molto somigliante al popolo, è quella di mostrare il capo politico o il potere politico come qualcosa che gli italiani vogliono. E quindi nel momento della fine del fascismo noi non abbiamo processato i gerarchi, non abbiamo fatto Norimberga, non abbiamo soltanto affermato con grande forza che in pochi giorni eravamo diventati tutti antifascisti e abbiamo favorito un'onda lunga che ha portato la Costituzione a dirsi lontana da quel periodo, a seppellirlo senza mai uscirne e a costruire un sistema democratico che era un labirinto che impediva al minotauro italiano, che vuole invece raffigurarsi nel suo capo, di uscire fuori. Ma nello stesso tempo abbiamo generato una prima repubblica dove, comandando sempre gli stessi, in pratica le elezioni si sono fatte, ma è sempre lo stesso partito ha vinto. Quindi nell'essenza tu mostravi in questo modo dolce che sapevi già chi doveva doveva rappresentare gli italiani, e chi doveva rappresentare gli italiani si mostrava a loro, a seconda del momento, come meglio preferivano fosse. E noi oggi viviamo la fase, diciamo, deteriore di questo liberismo all'italiana, dove tutti cadono, non sono dei veri dittatori, perché anche Mussolini cade in una maniera bislacca, se vogliamo. Noi immaginiamo sempre la fine del fascismo con la fine della guerra, ma il fascismo finisce 2 anni prima e finisce in una notte italiana, dove a Roma faceva tra l'altro molto caldo, durante un gran consiglio del fascismo, in cui un gerarca, amico di Mussolini, presenta un ordine del giorno che il Duce consente di mettere ai voti, che di fatto gli toglie il governo, nella convinzione probabilmente che gli venisse ridato, e poche ore dopo viene arrestato e scompare. E Piazza Venezia, nel giro di queste 48 ore, mentre Roma si ripopola lunedì mattina, è deserta, dopo essere stata piena di gente esultante fino a pochi giorni prima. Singolare che al tempo non esistevano né i social network né niente. Il passaparola era stato così repentino e così veloce che le persone che in un attimo andavano alle adunate hanno capito che era cambiata l'aria. Hanno capito che era cambiata l'aria, e i balilla che tornavano dalle loro rappresentanze della domenica si sono viste togliere dalle camicie i simboli della guerra, mantenendo i vestiti perché quelli avevano, e gli hanno detto che anziché cantare Giovinezza, tornando indietro, avrebbero cantato Romagna Mia. Fermo un attimo, Luca da Brescia, 800 24 00 24, scusate la velocità nell'interrompere, ma voglio sentire la voce degli italiani in questo momento, e questo proclama sa molto di antico proclama. Quanto voi vi sentite in questa sorta di algoritmo perfetto che definisce che gli italiani quelli sono? Passano i cosiddetti capopopolo, passano gli italiani eccellenti, i quali si riflettono gli italiani, ma gli italiani rimangono sempre gli stessi. Quindi è possibile chiamarli ancora fascisti? Bisogna trovare, secondo me, un altro sistema, visto che ormai il fascismo storicamente ha chiuso la sua storia. Sentiamo Luca da Brescia. Luca. Sì, buongiorno. Sì. Io volevo dire che secondo me la maggior parte di chi si professa fascista oggi in Italia non è veramente fascista, perché non sa di cosa sta parlando. Esattamente la tesi del nostro autore. Secondo me è una... quello che si sente, che sento anch'io ad esempio, è la mancanza di rigore, di rispetto delle regole e di leggi, che punisce, è la mancanza della legge che va a punire chi fa il furbo, chi viene corrotto, chi ruba. Cioè la sua è una richiesta di ordine e disciplina, ci vorrebbe. Esatto, ed è quello che c'era, o che si pensa che ci fosse durante il fascismo. Ma questo è un concetto fascistissimo così espresso. No, assolutamente. Allora, il rigore secondo me è una cosa giusta, è giusto rispettare le leggi, ed è giusto che chi ruba, chi viene corrotto, paghi, cosa che oggi in Italia non succede, o paga parzialmente, poi dopo può uscire. Allora, sottopongo a Tommaso Cerno questa telefonata come telefonata, diciamo, esemplare. Allora, è un ragionamento condivisibile soprattutto sulle premesse. Allora, oggi la destra italiana sedicente tale, anche quella che si considera estrema, nasce da presupposti sostanzialmente opposti a quelli su cui la destra italiana fondò il fascismo, nel senso che noi abbiamo una destra che nasce da una rivolta fiscale costruita addirittura sulla secessione del paese, che poi si evolve e si mette insieme a un movimento in qualche modo governativo, e incarnano due aspetti che sono marginali rispetto al mussolinismo. Sebbene la Lega, lei sta dicendo, spieghiamo agli ascoltori, la Lega, diciamo, è la prima... Lega è un partito che nasce gridando Roma ladrona, e che marcia su Roma non per conquistarla, ma sostanzialmente per dire che l'Italia è un altro modello e che lì finisce, e che lì ha la sua visione corruttiva. Mussolini era un sacerdote laico, anzi ateo, fino al 43, che ha ripreso proprio da Roma i simboli dell'impero e di ciò che di grande l'Italia aveva avuto nel passato, per costruire da Roma la vera marcia sul paese. Quindi, diciamo, lo storytelling, come si usa dire oggi, è ribaltato. Ma non trova paradossale che la Lega è stato proprio il primo movimento politico, poi è diventato movimento di governo e parlamentare, che aveva assunto concretamente una sorta di liturgia che era vicinissima a quella dell'estrema destra, che c'ha cose diverse, le croci celtiche, sì, i vichinghi, le spade, i fiumi sacri. Certamente, tutta la visione dei grandi miti del passato, sempre laici, mai cattolici, anche se adesso la destra difende i presepi, altra cosa che Mussolini non avrebbe mai fatto. Mussolini sostenne addirittura nel 19 che la natività di Cristo era una mistificazione. Però fece il concordato. ma si fece il concordato perché nel sostenere che l'inutilità della religione sosteneva però che avendo 400 milioni di fedeli nel mondo dovevano fare sempre bastone e carota. E quindi alla fine furono i due laici, Mussolini e Craxi, che si misero d'accordo con la Chiesa. La Democrazia Cristiana non avrebbe mai potuto mettersi d'accordo con la Chiesa, avrebbe dovuto obbedire secondo la santa obbedienza cristiana, cosa che il mussolinismo non ha mai avuto. Mentre la conclusione sull'ordine e la disciplina, anche questa è un luogo comune. Il fascismo fu corrotto esattamente come la Prima Repubblica, esattamente come la Seconda. Fu un movimento che portò danaro ai suoi amici, che fece arricchire e rese potenti le persone più vicine al duce, collaboratori, amici, amanti, figli illegittimi, che corruppe l'industria, che salvò le banche come stiamo facendo adesso per restituire il favore di chi finanziò la marcia su Roma. Cioè ebbe una complessità italiana che poi veniva raccontata come invece un movimento apparentemente rigido, militare, duro, ma sano. Ecco perché è perdurata questa leggenda metropolitana nel neofascismo e il dopoguerra. Il duce, quando l'hanno rivoltato, dalle sue tasche non uscì mai alcuna lira. Questa è una frase che sentivo dire in famiglia, capito? Perché le aveva dovute dare tutte ai farinacci, a tutti ai suoi gerarchi, perché non le teneva in tasca in quanto non era abituato a usare denaro, perché il duce era sostanzialmente l'Italia e il denaro era quello dello Stato. Ma il fascismo fu un movimento corrotto, fu un movimento che tolse ai militari italiani che andavano a morire nella campagna di Russia addirittura le scarpe per pagare le tangenti alle grandi industrie, che sono sempre le stesse di oggi, che erano vicine al regime, che avevano finanziato prima in maniera nascosta e poi in maniera evidente la scalata di Mussolini al potere. Quindi in questo senso fu un movimento molto simile all'Italia che abbiamo visto dopo, raccontato invece come un movimento che sostituiva un po' più di tirannia a un po' più di ordine pubblico, cosa anche questa non vera. Allora ci fermiamo solo un istante e diamo la linea alla borsa. La domanda per il seguito è proprio questa: noi viviamo comunque di aspetti fallaci, illusori e basati comunque su ricostruzioni fantastiche, sia del passato sia dell'attualità, e su questo continueremo fra un istante. Melog, cronache meridiane. Lo si pensi anche a un artefatto della cinematografia per il diletto di bimbi e donnine. E ridano pure questi orgogliosi e fieri fotogrammi scritti col sangue e il sudore degli eroi. Per quel che concerne noi, fortissimamente affermiamo questo puro, mero, meraviglioso e pure incontestabile fatto storico che intero s'annuncia e si rapprende in questa semplice e pur lapidaria frase. Alle ore 15 del 10 maggio 1939, Marte è fascista. Questa era la fantastica parodia di Corrado Guzzanti, Fascisti su Marte, che per fare realizzare in un film studiò per anni l'iconografia, gli atteggiamenti, filmati luce, con una sorta di minuzia filologica estrema, tanto che era estremamente credibile. Uno potrebbe pensare veramente che i confini dell'impero si erano estesi fino al pianeta rosso, nemico per eccellenza. Abbiamo parlato con Tommaso Cerno nella prima parte della trasmissione, autore di A Noi, cosa ci resta il fascismo nell'epoca di Berlusconi, Grillo e Renzi, editore Rizzoli. La teoria di Cerno è che in realtà esiste una sorta di filo conduttore che non è tanto gli aspetti esteriori, coreografici, mirabolanti, che Guzzanti riprende benissimo, ma quello è teatro, quello è satira e via dicendo, ma qualcosa di profondo, è un'eredità che passa anche attraverso tutta la classe politica, dalla DC del dopoguerra fino al periodo Berlusconi, fino appunto a Bossi non fa più parte, diciamo, della squadra, Salvini, Renzi, Beppe Grillo, insomma c'è un po' di fascismo in tutti. 800 24 00 24, già molti ascoltatori in ascolto, a cui in attesa di parlare le chiedo solo un istante di pazienza, che devo introdurre un ospite che finora ha ascoltato ma è stato in silenzio. Marco Pizzo, direttore del Museo Centrale del Risorgimento a Roma, buongiorno. Buongiorno. Allora, Marco Pizzo, occupandosi di risorgimento principalmente, quindi arriva fino alla prima guerra mondiale in teoria, ma visto che è da anni che sta battendosi per una rappresentazione museale che non esiste di indagine storica sul fascismo, il tuo punto di vista innanzitutto rispetto a quello che ha detto Cernus, questa sorta di anima che io ho chiamato come algoritmo segreto che muove gli italiani, che va al di là delle iconografie, che permane, resta tuttora, che ogni tanto è rappresentato da italiani che sembrano i rappresentanti degli italiani per eccellenza. Gli italiani si sentono rappresentati da alcuni leader, quindi improvvisamente fanno esattamente le stesse cose che facevano gli italiani quando aderirono al fascismo. Sei d'accordo o è una tesi che tu rivedresti dal punto di vista del rigore storico? Allora, è una tesi che io in parte rivedrei, ma sono assolutamente d'accordo quando Cern afferma che del fascismo si sa poco o nulla. Cioè, la cultura fascista, o meglio, quello che è stato il fascismo vero e proprio, dalla sua evoluzione, dal 19 fino alla fine, fino al 43, non è lo stesso fascismo. Si sa poco del fascismo, non si conosce perché non è stato mai musealizzato, non è stato mai insegnato, perché conoscere significa anche far venir meno questo apparato un po', diciamo, carnevalesco delle camicie nere, di Predappio, di tutto quanto. Quindi questa... l'anatema nazionale rispetto a tutto ciò che è stato il fascismo in realtà è la scaturigine di tutte le ambiguità parafasciste che ancora riusciamo a identificare. Sicuramente, anche prima giustamente si è detto che il fascismo della base era anche antireligioso, ma noi ci dimentichiamo che nel 39 il fascismo proclamò San Francesco patrono d'Italia. Ora, questa cosa letta oggi, San Francesco è quanto di più di meno fascista esiste, certo, possiamo immaginare. Quindi esistono varie anime all'interno, come non è possibile neanche essere nostalgici delle leggi razziali del 38. Cioè, di che cosa parliamo, di quando parliamo di fascismo? Oramai per fascismo è un termine che va bene per definire uno comportamento violento, antidemocratico, ma è un termine che potrebbe essere equivalente con altri 100. Come dire, sei un lanzecchinecco, la stessa cosa. È uguale, la stessa cosa, è un termine vuoto al di là di ogni cosa. Ascoltiamo qualche ascoltatore, poi Marco Pizzo continuerà su quella che è la sua idea forte, che sta dicendo da anni, che in realtà gli italiani non faranno mai conti veramente con la loro storia finché il fascismo non entrerà nei musei. Ci ha provato, ma era più una butade che altro, il sindaco di Predappio, a fare il museo del fascismo a Predappio, ma c'era sotto l'idea che fosse altro che una sorta di parco a tema per incrementare il turismo nel suo paese. Infatti non se n'è fatto nulla. Sentiamo Giovanni da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, io ho sempre pensato che il fascismo, chi si dice oggi fascista, è chi vuole sentirsi parlare alla pancia, e chi pensa ai fascisti pensa da parte del potere come di colui che vuole parlare alla pancia della gente. Io penso che gli italiani dovrebbero imparare a liberarsi da quella cultura contadina, con tutto il rispetto per i contadini, quella cultura contadina che difende il proprio confine e non si preoccupa minimamente di ciò che accade fuori. Secondo me questo è il vero passato che il fascismo storico non è stato capace di cancellare e che ancora noi oggi purtroppo ereditiamo. Lei questa eredità dove la vede? In cosa la vede rappresentata? Non so, nei movimenti furiosi, nei social network, quando si accaniscono su magari leggende inesistenti di atti efferrati compiuti da stranieri, oppure quando, non so, l'ascoltatore medio che ci definisce comunisti e semplicemente abbiamo un'idea semplicemente di dialettica rispetto alle complessità e non siamo trashan, oppure nella classe politica che ha maggior successo o riscuote maggior consenso. Perché... Esatto, la vedo in tutte quelle cose che lei ha individuato in modo preciso. Ecco, ma come si spiega allora che in Francia la Le Pen, che rappresentava anche con una base che faceva paura, perché tutti dicevano finirà la democrazia in Francia, succederà un disastro, poi in realtà se n'è andata con le pive nel sacco. Forse lì c'è una situazione diversa, hanno avuto episodi sanguinosi recenti che avranno pensato che forse le soluzioni non sono quelle di armiamoci e partite, come abbiamo già detto, forse quello esatto, è il motivo. Esatto, e poi è vero anche che la storia dell'Italia non è la storia della Francia, però ripeto, ecco, secondo me noi dovremmo essere bravi a liberarci di questo peso che abbiamo, e che è il fatto di pensarci sempre l'ombelico del mondo, come l'ombelico del mondo. Ecco, se lei sfogliasse un sussidiario delle elementari degli anni 30, sì, li conosco bene, li avevo per casa, mi ricordo. Ecco, lei leggerebbe dell'Italia come se fosse chissà quale paese, no? L'autarchia, l'autosufficienza, tutte quelle cose lì, che erano balle colossali. Eppure la gente si sentiva illusa all'epoca, come oggi si sente illusa da chi, per esempio, qualche passato recente, per 20 anni ha venduto balle all'Italia, ma più che ascoltare quello che diceva, noi eravamo attenti a come diceva le cose. E questo è il nostro grande problema, appunto, armiamoci, ma andate. Sentiamo Eleonora da Modena. Eleonora, buongiorno. Buongiorno, salve. E dunque io volevo semplicemente esprimere questa opinione, cioè del tipo che il fatto del molte persone oggigiorno, sia sui social network, ma anche purtroppo tra i ragazzi, sento dire ci sarebbe bisogno di un nuovo Duce, bisognerebbe ritornare all'epoca del fascismo. Si va di moda, fra i ragazzi oggi va molto di moda, hanno esatto. Bisogno però di qualcosa di simbolicamente definito e forte. Una volta caduto il calciatore, una volta caduto esatto. L'eroe della canzone, esatto. tornano ai miti del padre, anche perché per un certo periodo questo ha considerato un elemento di rottura rispetto ai genitori, che in realtà erano ancora, diciamo, dei residui antropologici di tutto ciò che ha fatto finta di assomigliare al 68 francese in Italia. Quindi una maniera per contrastare i genitori è dirsi fascista quando la mamma magari inorridiva, esatto. Capito? Questo è il fatto. Sono d'accordo, questo però a mio avviso è molto pericoloso, bisogna veramente starci molto attenti, perché io capisco la frustrazione di oggi nel nostro quotidiano e tutto quello che ovviamente possa essere una vita difficile, però tornare ad aggrapparsi a questi modelli antichi che non dobbiamo dimenticare anche il male che hanno fatto, come giustamente diceva prima lo studioso per quanto riguarda le leggi razziali, è una cosa gravissima ovviamente che oggigiorno dobbiamo cercare, io credo, di difendere con una cultura molto più solidale. Credo sia l'unico modo per poter far sì che, insomma, questi vecchi modelli vengono in un qualche modo, e specialmente per i nostri ragazzi, insomma, banditi assolutamente dalle loro sì menti, però quello che dice Pizzo, Marco, confortami se ho capito bene, è ben più profondo. Come vedi, ancora l'antitesi fascismo e non fascismo si basa su alcune parole di passo, elementi forti che non sono sufficienti, pur nella loro cosmica orripilanza, a definire il fenomeno. Se non si definisce bene non ci si spiega nemmeno perché oggi i ragazzi buona famiglia pariolina si rasano la testa e si dicono di destra e si mettono la croce celtica al collo, il fascio, via dicendo. Sì, no, ma infatti è proprio questo, cioè con il fascismo si è preso un aspetto esteriore, degli stereotipi vuoti, ma proprio questi stereotipi vuoti sono quelli che continuano a fare proselitismo nell'immagine comunque che il fascismo sia stato il culto dell'uomo forte che in qualche maniera diceva e ordinava tutta la realtà, che comunque metteva ordine e disciplina. Non era questo il fascismo, era un'altra cosa. Ma chi spiega questo? Chi lo dice? A cosa assomigliava? Se tu dovessi spiegarmelo con termini comprensibili oggi e contemporanei, in realtà cos'era? Una sorta di burocrazia corrotta, di piccoli impiegati che si mettevano le aquile reali al collo, ma in realtà rimanevano la loro piccolezza, non so, qualcosa del genere. Io ho visto un documentario terribile su Himmel, la mente di tutte le cose più orribili del nazismo. Era un piccolissimo impiegato claudicante, con dei problemi, con qualche imperfezione fisica. Nasce proprio come un poveretto, poi improvvisamente si mette grandi cappelli, divise, uniformi, stivali, è quello che stabilisce scientificamente lo sterminio degli ebrei. Sì, allora, durante il fascismo c'è una militarizzazione della società in cui chi aveva avuto anche un grado gerarchico durante la prima guerra mondiale si sentiva in qualche maniera espropriato dalla società civile di questo suo piccolo potere militare, e quindi il fascismo fa un grande assemblaggio in cui tutto diventa militare. C'è il sabato fascista, nei condomini c'è il capo condominio, c'è la camicia nera, c'è la divisa, e in tutto questo è il trionfo della mediocrità. Quindi si ferma sulla ultima propaggine di qualcosa di epico che ha passato il paese, che è la grande vittoria della prima guerra mondiale, e su quello si attacca e continua, come se oggi ci fermassimo sulle vittorie della nostra nazionale dei tempi passati e diventassimo tutti fanatici dei calciatori che vinsero quelle mitiche partite di cui non ricordo nulla. Ci fermiamo un istante, Marco Pizzo, a tra poco. Melog, Cronache Meridiane. Mi spiego perché i libri di Giampaolo Panza poi vendono tante copie. È un tema che ancora gli italiani discutono con estrema attenzione. Non so se nelle ultime settimane erano mai arrivate tante telefonate quanto oggi, che sono partito dalla sconfitta di Marine Le Pen e ho detto: ma che penseranno gli italiani, che magari avevano fatto una piccola deina che l'Europa ritornasse ancora ai vecchi antichi valori? E tutti vogliono dire la loro, questo mi fa molto piacere. Alessandro, provincia di Novara. Sì, buongiorno. Vorrei riallacciarmi a ciò che avete affermato all'inizio della trasmissione, cioè che l'Italia non ha ancora fatto i conti con il fascismo. Su questo punto io concordo pienamente, sottolineando una cosa, che probabilmente, almeno per come la vedo io, l'esperienza fascista è stata così drammatica e struggente per questo paese che la Costituzione venuta dopo la fine della guerra è stata studiata per evitare in tutti i modi che ci fosse una concentrazione di potere in questo paese, e questo è un calvario che la Repubblica vive costantemente dal 45 ad oggi. Sostanzialmente non si accetta in questo paese che qualcuno detenga potere, tant'è che viene subito additato come fascista. E di fatto questo paese è un'anarchia, non è governato dalla democrazia, ma da un'anarchia bella e buona. Legge, tutto nasce da una paura che possa ritornare, diciamo. Il meccanismo è tale che appena si afferma qualcuno con carisma, in qualche maniera è subito accusato, perlomeno entra nell'area sospetta a voler ripercorrere quel cammino. Sicuramente viene additato immediatamente, ecco, come fascista. Non avremo mai dei capi amati dal popolo, allora, perché saranno sempre considerati delle minacce dei duce a orologeria che potrebbero esplodere in ogni momento. Sicuramente, però un popolo maturo dovrebbe avere la maturità, appunto, di accettare che un governatore governi per il periodo che la Costituzione gli permette di governare. Diciamo che i nostri padri della patria dal dopoguerra in poi sono sempre stati proclamati dopo la morte, e nella maggior parte dei casi erano tutti presidenti della Repubblica. Maurizio da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno. Maurizio. Senta. Buongiorno, senta, io volevo, se posso, riallacciarmi a quello che già qualche decina di minuti fa ha detto l'autore che voi state intervistando, cioè che il fascismo fu un regime corrotto. Ora, io non sono un grande storico, però il papà di mia mamma, mio nonno, era un federale fascista, e io l'ho conosciuto molto bene perché è morto nel 68-69, quando io avevo 13 anni o 14. Ora, mio nonno era un federale di una città del nord Italia. Nel 43 decadde da federale, ovviamente, fu immediatamente richiamato alle armi, subì un qualche processo amministrativo in quanto federale. Fu epurato, probabilmente non lavorò per tanti anni. Mi scusi? Fu epurato, non lavorò, cioè, diciamo, quelli che subirono questi processi non vennero condannati a pene detentive o pene più gravi? No, non fu mai condannato a nessuna pena detentiva, non solo, ma il processo di cui le parlo finì con la constatazione che, entrando in casa sua del federale, si aveva l'impressione di entrare in una casa di qualunque borghese. Quindi non trovarono ori o cose. Durante la Repubblica di Salò non fu mai molestato neanche dai partigiani, e dopo la guerra, quando morì ormai, poi si mise in proprio, fece, adesso non ricordo, il rappresentante, l'agente immobiliare, non ero mattina pubblico, lavorò in proprio, andò in pensione. Quando morì, qualcuno anonimamente sul giornale di cui si, di questa piccola città del nord, scrisse se il nome e cognome di mio nonno è morto, lo ricordiamo con qualcosa come Dio, con affetto, con rimpianto o qualcosa del genere, e disse queste parole: se galantuomo è da intendersi non chi non mette la mano nel portafoglio degli altri, ma chi è governato da veri idee di rettitudine e di onestà, allora il dottor nome e cognome deve essere considerato. Adesso io la lascio parlare, perché è giusto lei possa anche fare l'apologia di suo nonno, ma questo non dice nulla. Suo nonno era una persona onesta, sarebbe stato onesto in qualunque tipo di governo, in qualunque regime. Che ci sia stata una radice di burocrazia corrotta e profittatrice e tangentare all'interno del fascismo è storicamente provato, che purtroppo non viene rappresentato nei luoghi in cui si rappresenta la storia. Marco Pizzo. No, proprio questo, cioè non si dice l'evoluzione reale degli avvenimenti storici. Anche l'episodio che ci ha raccontato il signore su il fascismo, c'erano anche tante bravissime assolutamente persone. Pieno di galantuomini, perché però no? Invece c'è l'assioma è che il fascista, come infelicemente ha detto qualcuno, i fascisti tornate nelle fogne ancora recentemente, ma questo è un non comprendere cos'è la storia, non comprendere degli avvenimenti che oramai hanno più di mezzo secolo e quindi sono ampiamente storicizzati, ampiamente conosciuti. Allora, ti faccio una domanda, Marco, scusa. Questa rimozione che poi passa di mano in mano è un testimone che tutti, diciamo, i governi sono tenuti in mano, bene o male, anche quando c'è stato il centrodestra alla fine. Sì, in qualche maniera abbiamo avuto il vantaggio che si è fatta una storia più equilibrata sulle vicende delle foibe, ad esempio, degli italiani, del Giuliano Dalmati e via dicendo. Però alla fine nessuno ha mai messo sul piano della reale scientifica analisi di storia questo periodo. Ecco, nasce proprio dal fatto che in realtà tutti hanno un lume di coscienza non può più pulita, si sentono che in fondo hanno ereditato la parte teorica, il software di quel regime, abbandonandone e prendendo le distanze dall'aspetto esteriore, quindi dall'hardware. No, proprio perché tutti hanno paura che studiare il fascismo significa aderire al fascismo. Chiunque, destra, sinistra, centro, che è stata questa specie di assioma per cui ognuno, no, io mi proclamo antifascista e quindi mica posso in qualche maniera divulgare il fascismo, ma come se la divulgazione e la conoscenza fosse l'adesione a un momento che oramai non c'è più neanche il caso di dire positivo o negativo, è consegnata alla storia, è stato uno dei grandi drammi dell'Italia contemporanea, ma perché non lo rappresentiamo? Vincenzo, provincia di Cesena, ha proprio 30 secondi per concludere. Brevemente volevo dire solo questo, indipendentemente da tutta quella che è la storia, visto che non sono storico, anche se potrei raccontare molti aneddoti. Io credo che oggi, mi riallaccio al problema dei giovani, dei miti e del centro e della sinistra, di come gli uomini politici di oggi si pongono nei confronti soprattutto dei giovani, e che nessuno è riuscito ad effettivamente reincarnare l'unità d'Italia. È venuto meno il valore del risorgimento. Lei pensa, adesso Pizzo la confermerà nell'ultimo minuto, il fascismo nasce proprio ereditando i valori del risorgimento, o sbaglio, Marco? Certo, e tant'è il risorgimento che è stato tramandato alla storia è il risorgimento tra virgolette fascista, mentre il vero risorgimento è un'altra cosa. Vedi com'è complesso in realtà la trasmissione dei dati storici e analisi storica. Spero che la battaglia di Marco Pizzo, che noi sposiamo in pieno, possa avere finalmente un suo felice esito e da qualche parte si apra un vero museo dove si analizza storicamente quello che fu il ventennio, visto che gli italiani ancora di questo parlano molto volentieri e con grande vivacità. Alla prossima!